senti il flow, fratello? Sono io? Sono Anonimo. E adesso te lo insegno a fare hip hop. Perché non sei degno di ascoltare la mia voce? Se non sei Bonanre Frocce, io adesso ti insegno a dire qualcosa senza disdegno. E ascolta, ho dedicato questa canzone a tutte le donne che hanno voglia senza mestruazione. Ciao, ciao, ciao bella bambina, sai che ti penso che era già mattina. Ieri mi sono sfondato di anfetamina, ma non perché mi drogo, ma perché vorrei bruciarti su un rogo. E intanto affogo nei miei pensieri, io odio i gay perché non si attizzano, sai, perché non ti apprezzano, dai. Sai cosa ti dico allora? Ti amo. Ciao. Ti amo. Yes. Ciao. Ti amo. Rappo. Non sono partigiano, ma un amante dell'ano, uno che col culo ci allaccia le scarpe. Tutte rotte, no, tutte rotte, tutte rotte. La Befana viene di notte con le calze tutte rotte, Bernardino, perché c'ha sempre il cappellino, c'ha voglia di un pompino. Io mi chiamo Anonimo Luigino e faccio il cantante malandrino. E allora sai cosa ti dico, stronza? Fanculo te e l'isola di Ponza, ti spacco di paranza e sono già in partenza. Non opporti, non fare resistenza, entra nella stanza e senti un po' la consistenza. Direi abbastanza. Ciao, ti amo. Yes. Ciao, ti amo. Rap. Questa era la canzone rap di Anonimo, dedicata a tutte le donne che sanno perfettamente che io sono un grande amante. E ci devo dire una cosa a tutte: io vi spacco.